Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ecco, anche per quanto riguarda lei, anche regalare un Ops che porta un cuoricino, secondo me è anche qualcosa di romantico. Oppure un bel ciondolino a forma di cuore, o sapete che ci sono quei cuori spezzati, quindi un cuore lo porta lei, un cuore lo porta lui. Oppure potete personalizzare qualcosa, sapete meglio di me che si possono personalizzare tante cose, quindi far personalizzare una tazza, fate mettere una vostra foto, una foto che sì, direi io cosa mi farei personalizzare il giorno di San Valentino. Fatemi una misericordia, una cortesia, telefonatemi e ditemi che oggi vi siete dimenticati che sia San Valentino, che nella vostra vita soltanto in periodi oscuri, bui, lontani, in recessi remoti della vostra esperienza esistenziale avete perlomeno una volta seguito questa fosca regola di ricordarsi il giorno degli innamorati. Ditemi questo, chiamate all'800240024 e ditemi, per me San Valentino non esiste. Sì, perché in realtà non esiste davvero. Una volta andai a Terni, dissi al prete della chiesa di San Valentino: ma che c'è dentro questo sarcofago d'argento? Mi disse: vadi, non c'è quasi niente. Sì, perché sapete come funziona. Terni era vicino a Perugia, Perugia c'aveva i baci perugino, hanno inventato una festa per dare un po' di baci, hanno detto: facciamo la festa di San Valentino. È nata questa festa degli innamorati, che io ho sempre detestato profondamente, anche quando ero in età di amori fanciulleschi e adolescenziali, cioè le fidanzatine, dovevi fargli il cuoricino, fargli il regalino, fargli il cartoncino. Beh, ho sempre avuto conati di vomito ogni volta questo veniva chiesto, o quando lo ricevevo. Questa mattina, per fortuna, nessuno mi ha fatto un San Valentino. No, un'amica mi ha mandato un cuoricino. Sì, ma l'avrà mandato ai 50.000 iscritti alle sue liste di distribuzione di messaggi, quindi è un cuore che non vale niente. Quindi sono grato alla mia amica che non mi ha gratificato con un San Valentino personalizzato. Cosa si fa in questo giorno? Beh, vi dico le cose squallide, ho fatto una rapida inchiesta fra persone informate dei fatti. Beh, diciamo che il vero problema è che oggi gli innamorati sono tutta gente che è sposata, c'ha 6 famiglie alle spalle, quindi deve consumare in maniera clandestina il San Valentino, quindi è qualcosa che si tiene nascosto, come i capitali che si mandano all'estero, non è che uno può permettersi che si facciano accertamenti sul San Valentino. Quindi magari qualcuno stasera dirà: una riunione in ufficio, ho un impegno importante, vado a fare la partita di calcetto, poi 4-4, come se andasse a rubare qualcosa, si infilerà in quei ristorantini che già tutto hanno preparato apposta, si prenotano su internet. Entrate, c'è la musichettina, non so, musichetta Melenza, ai miei tempi era Fausto Papetti con il sax, oggi non so cosa l'avrà sostituito, boh, forse Allevi che suona al pianoforte, i suoi riccioloni e tutti pieni di cuoricini rossi, stanno lì, entrano, trovo la tavolina tutta imbandita da San Valentino, riciclano le tovagliette rosse e i piattini rossi avanzati per il cenone di Natale, ci mettono 4-5 moccoletti, li accendono per San Valentino e poi fanno il menù dell'amore. Ci sarà un cuoco egiziano che fa qualche frittatina flambé che la spaccia per qualcosa di buono per gli innamorati, tanta cioccolata, tanto peperoncino, sperando che a lui si attizzi un pochino per questa serata. Lui sarà con l'orologio in mano a aspettare che deve tornare a casa la moglie che l'aspetta in ciabatte con le vene varicose, che anche per lei avrà preparato un San Valentino, perché deve compensare anche il giusto equilibrio familiare. Beh, questa è una festa. 800240024. Amici maschietti, siamo alle porte di San Valentino. Allora, pochi e semplici consigli per far sì che una serata romantica si trasformi in una notte veramente speciale. Primo consiglio: quest'anno, ragazzi, San Valentino cade di venerdì. Potreste anche giocarvi un lungo weekend di passione. Ma attenzione, evitate i motel. Secondo consiglio: scegliete un locale per la serata speciale, però evitate birrerie, pub, pizzerie e fate in modo che sul vostro tavolo bene decorato ci sia subito pronta una candela già accesa. Terzo consiglio: evitate anche in questo caso quegli orribili cuscinetti a forma di cuore. Quindi scegliete, optate per dei mazzi di rose rosse a gambo lungo. Mi raccomando che il numero sia superiore a 50. Buon San Valentino! Scusate, ma se evitate i pub, le birrerie, dove trovate il cingalese che vi porta le rose rosse a gambo lungo da regalare alla fidanzata, il numero superiore a 50, cose del genere, non ho capito. Beh, questo è uno dei consigli di San Valentino. Perché bisogna evitare pub, birrerie e motel? Beh, motel perché trovi i camionisti visti con le puttane, quindi suonerebbe male. Magari ti fanno l'occhiolino, ti guarda la fidanzata, dicono poi me la lasci un attimo, dopo così me la scaldi, roba del genere. Nelle pizzerie, nei pub trovate i poveracci, i ragazzini, quelli che fanno il ginnasio, il liceo, le scuole medie, che veramente ancora ci credono all'amore, vanno lì, si sono indebitati, hanno messo da parte le paghette per mesi, hanno comprato il gioiellino placcato d'argento, perché sta qui che ormai già ci avrà in mano lo smartphone pieno di tutti gli appuntamenti delle sue lunghe pratiche precedenti a quell'incontro romantico, prenderà il ciondolino e se ne andrà. Poi magari, se abita nel quartiere Parioli, sa benissimo come compensare con botte di mezzo milione o 500 euro, che è poi la stessa cosa, e risolverà peraltro il suo problema. Il vero genio chiamato in questo momento, Marco, buongiorno. Buongiorno. Come festeggi la festa degli innamorati, Marco? Ma io ho trovato un modo molto, molto singolare. Sono andato in comune dove ci siamo sposati e ho ritirato l'estratto dell'atto di matrimonio per la separazione. Ah, quindi la molli? La mollo. La cosa è finita, stasera lei uscirà col suo fidanzato, cioè vive ancora a casa, però è col suo fidanzato. Pensa che genio, pensa che genio. Lo invidi, vero? Da matti. Comunque, e dove la porta, secondo te, la tua ex moglie, quasi ex moglie, fidanzata? Non lo so, penso in qualche ristorante salutista, visto che è vegano. Ha trovato un uomo che è privo di qualunque tipo di difetto. Quindi? Non beve, non fuma, non prende neanche il caffè. Quindi manco tromba? Ma non lo so, però sembra di sì. Lo dicono per dire. Beh, questa sera la porta al ristorantino, magari ci sono, non so, un ristorantino etnico, secondo me. Ma può darsi. A mangiare lo zighinì con le mani, che è tanto bello, fa tanto figo. No? Sì. Sicuramente. E tu invece che fai? Come fai questa botta di vita? Te la fai stasera? Io stasera metterò a dormire i bimbi. Ah, tu sei tu ti ha lasciato una bella carbonara con una bella bottiglia di Barbera. Da solo? Già deciso. Ma sì, tanto... Ma invita un'amica, scusa. No, ma sono a casa. E vabbè, che intanto i bambini dormono, li chiudi a chiave, li narcotizzi, qual è il problema? No, ma va bene così. Vabbè, in bocca al lupo. Dai, tanto godrai tantissimo pensando che... Come sarà l'esito tristerrimo di questa serata di San Valentino? Pensa a te, con le cose vegetariane, con il mantra prima e dopo, gli lavano le mani, poi andranno nella spa a farsi il massaggio ayurvedico, poi lui si addormenterà perché è un salutista, si addormenta presto, lei starà lì e penserà già cosa ho lasciato, cosa ho pensato di fare in questa disgraziata giornata di San Valentino. Bravo Marco. Paolo? Sì, buongiorno, salve Nicoletti. Anche donne chiamate però. Paolo, come festeggi? Ma veramente farò una cena con la fidanzata e con tre amici. E in quattro con una fidanzata? Esatto, e mangeremo. E beh, sei generoso, scusa. E gli altri amici vengono, mangiano, bevono e tu porti anche la fidanzata? No, veramente la facciamo a casa nostra ed è una cosa tranquillissima. Finito cena, giochiamo a carte. È una botta di vita. Un grappino. E beh, dov'è la fattispecie legata all'amore? Scusa, chiami tre amici, va vinazzate, bevete, mangiate e giocate a carte. Parte. E lei che fa? Lava i piatti? No, l'amore per la fidanzata lo provi sempre, non hai bisogno di San Valentino. Ma hai domandato se lei è d'accordo di questa sorta di partouze con gli amici che giocano a carte, se avvinazza? Ha voglia, l'ha proposta lei, perché se gli portavo mazzi di fiori, rose rosse, scenette romantiche... È un gioco fra voi, quindi è giusto, se è condiviso, va bene. Questa è la maniera di passare San Valentino. Ezio, bravo, Ezio. Buongiorno, salve Nicoletti. Sì. Allora, io volevo dire questo. Mia moglie ha una fioreria, in questo momento stanno lavorando a catena in tre. Ah, lavorano come matti con i fiori? Lavorano come matti, è la giornata, la seconda giornata dell'anno. Ma quindi ancora la gente fa queste stronzate per regalare i fiori a San Valentino? Ah, sono in tre adesso a servire a manetta da due giorni. Ma cosa fate? Con i fiocchi rossi, con i cuoricini? Sì. Comunque le dico una cosa. Allora, l'operaio entra e dice, si vergogna e dice, fammi... un po' di erba secca per la mia capa che ho a casa. No, un po' di erba secca per la mia capa che ho a casa. E invece il manager, il direttore della fabbrica, prende due roselline miserabili per la famiglia, per la moglie. E per la segretaria? E per la segretaria regala rose da 110 centimetri. Per compensare la scarsezza di centimetri che deve propinarle, probabilmente. non si capisce. Tutta sta smania dei gambi lunghi, non la vedo perché proprio... Comunque è così. Vabbè, in bocca al lupo, bel lavoro. Sono contento, la moglie lavora. Elisa? Buongiorno. Oh, finalmente. No, perché si chiamano solo uomini, sembra che questa è la festa degli uomini, la no, festa degli innamorati. Come so festeggia il giorno dell'amore, Elisa? Ma ci eravamo completamente dimenticati, volevamo confortarla in questo, io e mio marito felicemente sposati da 14 anni, eravamo in macchina, ascoltavamo la radio, ci siamo guardati e ho detto ma che è San Valentino? E che farete questa sera, data la mia ispirazione? Ma niente di niente, penso quello che avevamo già programmato... Cioè? Oggi è venerdì, niente. Oggi è venerdì, abbiamo una bimba di 8 anni, magari usciamo con la bimba, andiamo a mangiare qualcosa. Ma perché vediamo tutte queste scelte di tristezza? Scusa, ammesso e non concesso che sia la festa degli innamorati, mi fa schifo, ma è così. Perché deve portarvi la bambina dietro? Che senso ha? No, ma perché per noi non è San Valentino oggi, nel senso, non è sempre. Noi due. Per noi è un venerdì come gli altri, avevamo già programmato di fare una gita fuori città nel pomeriggio, visto che è una giornata splendida a Vicenza dopo settimane di... Vabbè, ma andate a fare una passeggiatina con la bambina. Esatto. Mette una tristezza bestiale, però è così, va bene. In bocca al lupo. Silvana! Buongiorno! Cosa fa lei per San Valentino? Allora, noi abbiamo un'umilissima trattoria dove io ho scritto fuori non si festeggia San Valentino, ma gli abbracci di Romeo e Giulietta. Perché un amore così dura 30 secondi. Che è un'altra bufala, Romeo e Giulietta, perché il balcone è finto. L'hanno costruito negli anni 60. Ci portano lì torme di giapponesi che scrivono sul muro il loro nome, che nessuno legge. Mi dice come può essere esempio di amore una cosa finta. L'intensità di un abbraccio dura un istante. E poi? E poi finisce tutto, perché si vive tranquillamente con gli sposati, con i mariti, con le mogli, tutto quello che vuoi, ma non è amore vero. E l'amore vero lei dove lo cerca allora, scusi? No, si vive in un istante, lo devi saper prendere, punto e basta. Ma lei dov'è che lo va a prendere? L'ho preso. Vabbè, mi fa piacere. Allora, con Silvana che l'ha preso, mi sembra una delle migliori maniere per chiudere la prima parte di questa succosa trasmissione. Diamo le informazioni del traffico e riprendiamo tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Ciao a tutti, oggi faremo un cestino decorato per San Valentino. Occorre il giornale, uncinetto, colla bianca e pennello. Ciao a tutti, quest'oggi voglio farvi vedere un nuovo bigliettino di San Valentino. È questo qui. È un'idea molto romantica, sempre cuoriciosa, ma la particolarità, ecco, forse così si vede di più, è che il cuoricino risulta sospeso nel bigliettino, quindi è come se fluttuasse nel nostro bigliettino. 80024, 0024, stiamo parlando della fantastica e meravigliosa festa degli innamorati, oggi San Valentino, anche se mi chiama un ascoltatore mi dice io sono ebreo, per me San Valentino è qualcosa che va verso il 15 agosto per loro. 15 agosto e San Valentino sotto Ferragosto, fanno due feste in una. Poi quanto siete permalosi, camionisti, mamma mia, non vi riconosco più. Hanno chiamato due camionisti, vergognati, non andiamo nei motel con le prostitute. Ci andrai tu? Vabbè, può essere. Ci vanno i giornalisti, può essere, diamo questa notizia. Cecilia, buongiorno. Salve, io sono d'accordo con te, mi fa vomitare sin dall'adolescenza, anche a me ha fatto sempre vomitare. Ma non ti hanno mai regalato il cuoricino? No, ma... Il risottino alle fragole? Regalato, l'ho eliminato da... Non hai mai fatto un bel risottino alle fragole? Oggi leggo su tutti i giornali, fate... No, una cosa, no, per carità, non so, proprio... è da vomito. Ma hai un tono della voce cinico, tu sei una di quelle che non crede nell'amore. Non credi... No, credo nell'amore, ma non credo in San Valentino, è diverso, sono due cose diverse. Vabbè, dai, ti lascio con il tuo crudo cinismo, invece una bella festa con gli innamorati. Barbara! Buongiorno Nicoletti. Festeggerà lei San Valentino? Diciamo di sì. Vabbè, perché diciamo sì o no? Andrò a fare una lezione di tango con mio marito. Ma il tango ci si va da sole, non ci si va col marito, scusi, è la regola base. No, è divertente col marito, sì, ma sa che divertimento, ma non ci stiamo a prendere in giro, almeno il giorno di San Valentino, scusi. Il bello del tango, le donne vanno sole, vanno lì, lanciano gli sguardi, le occhiate, raccolgono le occhiate, trovano un uomo a caso con quello ballano. Questa è la regola del tango. Uno ci va col marito, che vuol dire? Non ha senso. Ma invece è bello, porta tante cose positive. Sì, è come andare al casino col confessore, non c'ha senso, su. Ciao ragazze, allora questo è il trucco che ho pensato quest'anno per San Valentino. Ho fatto uno smokey eye marroncino e anche un pochino glitterato sugli occhi per renderli un pochino più speciali per questa occasione. Per San Valentino ho ricevuto questo magnifico mazzo di rose e quindi voglio ricambiare questo romantico pensiero con una ricetta davvero speciale. Preparerò una torta a forma di cuore. Certo, se a me mi avesse detto una ragazza nei tempi in cui ancora le frequentavo: per la festa di San Valentino mi faccio uno smokey eye marroncino, beh, io mi sarei un po' insospettito, avrei avuto qualche pudibondo timore nel frequentarla. Paolo. Sì, salve. È il mio 15° anniversario di matrimonio oggi. Hai coraggio, tiri su, passa. E quindi che farà? Oggi è una bellissima giornata, come ha detto. Sì, è bella giornata oggi. C'è il sole. Per qualcuno bella, per qualcuno che deve salire al collo è un po' meno bella, però su questi molti hanno ironizzato, la strage di San Valentino, è successo di tutto. Oggi in effetti i giornali sono più tesi a parlare dell'aspetto del regolamento di conti piuttosto che parlare della giornata dell'amore. Mi dispiace, quindi noi compensiamo. Quindi oggi è l'anniversario di matrimonio di Paolo, giorno di San Valentino, quindi lei due pizzoni con una fava, con un regalo unico fa due feste. Assolutamente sì. Anche se non è stato voluto in realtà, perché il 14 in realtà si trasforma sempre è difficile da gestire, perché se esci trovi sempre una massa incredibile di gente. Sì, stasera saranno pieni i ristoranti. Io vorrei andare in giro a far foto alle persone che stanno ai tavolini con degli schermi d'acciaio fra di loro, dovranno festeggiare questa festa, non sanno che fare, parlano del vino, parlano del cibo, si guardano intorno, altre coppie agli altri tavoli, si tengono nella manina, il regalino, lo scartino, lui tutto acchittato, lei tutta carina, e poi che fanno? Non lo so, andranno in giro a far qualche triste connubio per festeggiare il giorno di San Valentino. Claudio. Salve, io sono Claudio. Sì, ho capito. Abbiamo festeggiato San Valentino ieri sera perché avevamo paura di trovare troppa gente in giro. Ah, l'avete anticipato? L'abbiamo anticipato. Perché costa meno, fra l'altro, c'è anche lo sconto. Oh, però, non ci avevo pensato, però in effetti è stata una buona cosa. Ma avete messo sempre le candele rosse, il peperoncino? Sì, esatto, con le candele rosse. Il risotto con la fragola? No. Il risotto con la fragolina? No, quello no. Abbiamo mangiato bene, comunque. Ma come avete detto al ristoratore, ci fa un anticipino della festa di San Valentino? Proprio così. E lui ha detto: fate bene, perché la cucina è pronta, ma per domani. Ah, quindi voi prendete le pietanze appena cotte, le altre se le beccano riscaldate il giorno dopo? Più o meno così, sì. Beh, poi che è proprio disgraziato ci va sabato a fare il San Valentino, che si becca gli avanzi e spende ancora meno. Ma dove lo trovi uno sincero come me? Sai poi che io faccio l'attore? E sono pure bravo, ti dirò. E me lo dicono tutti. Scrivo poesie, io faccio degli endecasillabi, guarda. A me Leopardi mi spiccia casa. Canto, ballo, che Roberto Bolle sapeva soltanto gattonare. E Freddie Mercury è meglio che andava a zappare la terra. Fidati. È generoso. Ci andiamo a prendere una cosa stasera, eh? Che dici? Però paghi tu stasera, dai. Prossima volta offro io. Perché a me? Senti, ma mai che te ne sono spicci per la benza? Perché a me? Perché questi orrendi mezzi di comunicazione? WhatsApp, Facebook, Twitter, gli SMS. Capisci? Pretendono da me una risposta. Vogliono sapere che cosa penso, che faccio, chi sono, se ti voglio vedere. Cosa ne sanno loro di noi due? Fanno quasi venire voglia di non vederti. Anzi, cos'è che c'è? Arrivi adesso al telefono. Ecco, questa è una rassegna di maschi e sarebbe meglio tenere lontani, non avvicinare il giorno di San Valentino, ma sarebbe meglio non averne mai a che fare. In realtà ci saranno uomini che questa sera proporranno alle donne di andare alla cena di San Valentino. Ci saranno donne che pretenderanno, battendo i piedi, facendo il muso, rendendo la vita impossibile per settimane, che i loro uomini si ricordino della festa di San Valentino, pur sapendo tutti che è un grande accrocco commerciale, una cosa inventata, una cosa che non esiste. Perché? Perché l'amore non può essere festeggiato, l'amore non è a comando, non è che il giorno si decide che si festeggia l'amore. L'amore ti rapisce, ti prende, ti fulmina, ti stramazza, non è che aspetta il giorno di San Valentino per dire facciamoci la festa. L'amore la festa te la fa sempre, non te la fa mai. Puoi aspettarlo tutta la vita, poi ti arriva quel giorno e tu sei impreparato, o puoi comunque frequentarlo con goduria e con soddisfazione e nemmeno accorgertene. Puoi racludere tutto questo in un soltanto in un giorno, in una tristissima rassegna di regalucci da fare. Ciao ragazzi, questo è un video dedicato a San Valentino, è un video dedicato a mostrarvi una serie di tante piccole cosine magari per fare questa cenetta romantica, e, insomma, delle Roberta, cose. Buongiorno. Nicoletti, buongiorno. Io volevo solo dire che sono d'accordo con lei su come si festeggia in modo orrido il San Valentino. Io sono single da molti anni, vedova, però io ho sempre festeggiato, anche quando c'era mio marito, solo ed esclusivamente il giorno in cui ci siamo conosciuti. Per noi era il nostro San Valentino, il nostro anniversario. Non festeggeravo neanche quello di matrimonio, era così, funzionava in quel modo, perché... Ma per una vedova il giorno di San Valentino, scusi, che senso ha? È un giorno che ormai non appartiene più alle possibili esperienze? No, domanda. Non è mai stato festeggiato il San Valentino, credo che sia una data particolare che ogni coppia ha, eventualmente, ma non è necessariamente il 14 febbraio. Eh sì, però lo sa, nella necessità di ottimizzare costi e benefici, chi vende i cioccolatini, chi vende i candelotti, vende le mutande col pizzo rosse. Ma l'importante è non fare delle cose tristi. Qual è la cosa più triste secondo lei? Triste uscire così perché è San Valentino, non perché si ha voglia di fare qualche cosa insieme, ritengo. Sono anziana, tra virgolette, però insomma. Sì, quanto è anziana? È 62 anni, insomma. Vabbè, c'ha più o meno la mia età, si dice anziana, cioè, esco da questo studio e mi sparo il giorno di San Valentino. No, ci mancherebbe, abbiamo tanto entusiasmo ancora, quindi... Vabbè, non mi pare dalla sua voce che sia molto entusiasta. Cioè, le testimonia che San Valentino, c'è Roberta, dicendo una cosa iperoriginale, è il giorno che gli innamorati eleggono per ricordare il loro amore. Ma non sono d'accordo nemmeno in questo. Anche in questo è molto difficile, perché il giorno fulminante in cui l'amore sbocciò, o ce lo ricordiamo, è un giorno che è stato benedetto comunque dalla sorte. Non è detto che ritorni quel giorno immancabilmente una volta l'anno. Sì, però infatti. Però cioè, non è un rito voodoo, che una volta l'anno uno rifà le stesse cose e stanno bene. Non è esattamente così. Sì, però insomma, ricordare quella cosa è come dargli ancora un'importanza, un po' di energia, no? Mantenere il come ricordare il suo marito morto, scusi, che vuol dire? Ricordare qualcosa di passato? Adesso non festeggio più quel giorno. Quando c'era, si festeggiava, tra virgolette, quel giorno, ma così, perché faceva piacere farlo. Ma adesso ha smesso di festeggiare? Di esserci conosciuti. Ha smesso di festeggiare? Beh, certo, altrimenti si vive nel passato, non ha senso. No, ha smesso di festeggiare non con suo marito, con ricordo, in genere. Ah, no, guardi, no, io ormai sono liberamente single, sto benissimo anche così. Vabbè, non vuol rispondermi nemmeno il giorno di San Valentino. Auguri a tutti, fate una bella festa.